Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. The commission has to work closely together with È norma comune, buon senso comune, che la Commissione europea lavori con qualunque governo, ed è quello che faremo con la Grecia. Così le parole proprio pochi istanti fa del Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. Rispettiamo la scelta sovrana e democratica di Atene, la posizione ufficiale della Commissione dopo il voto greco. Commissione che si dice pronta a lavorare con il nuovo governo, ma aggiunge quando sarà formato. Di fatto la questione è al centro della agenda europea. Oggi ufficialmente l'Eurogruppo si riunisce per discutere di flessibilità, ma di fatto si parlerà di Atene. Se ne sta già discutendo in un prevertice a Bruxelles. Alessandra Schepisi. E sia così, Anna, all'indomani del voto l'Europa cerca di capire quale risposta unitaria dare alla Grecia di Tsipras, che punta sulla fine dell'austerity e sulla rigonizzazione del debito. Tutto questo anche in vista, lo ricordiamo, della scadenza il 28 febbraio del programma di aiuti della cosiddetta Troica. E l'obiettivo è comunque quello di evitare uno strappo che avrebbe conseguenze traumatiche su tutta Europa. Oggi a Bruxelles si riuniscono i ministri delle finanze dell'Eurozona, ma prima si sta svolgendo una colazione di lavoro tra i presidenti del Consiglio europeo Donald Tusk, della Commissione Juncker e dell'Eurogruppo Dijsselbloem. Quest'ultimo è stato piuttosto categorico: gli accordi vanno rispettati, abbiamo già concesso tanto, quindi no a ulteriori tagli del debito. Sentiamo. Well, as you know, we've already done a lot to lift the debt burden for Greece over the last couple of years in terms of. Parole più concilianti, invece, come anticipavi tu, quelle della Commissione europea. Siamo pronti a lavorare con la Grecia per risolvere i problemi rimasti, ha detto la portavoce Shinas, aggiungendo che il paese ha fatto notevoli progressi. Intanto anche Berlino prende posizione, collaborazione, ma gli impegni vanno mantenuti, ammonisce Stephen Seibert, portavoce della cancelliera Angela Merkel, mentre il portavoce del ministro delle finanze ha detto di essere aperto ad un possibile nuovo prolungamento delle scadenze legate ai programmi di aiuto concordati. È una opzione. A te, Anna. E grazie ad Alessandra Schepisi. C'è già stato in realtà un primo contatto tra l'Europa ed Alexis Tsipras. Nella nota telefonare al leader greco di Syriza è stato il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, è stato lui stesso a raccontarlo, smorzando anche i toni che si sollevano da cancellerie e banche centrali. Tsipras è un pragmatico, ha detto Schulz, sa benissimo che dovrà fare dei compromessi sia nel suo paese sia esternamente. D'altra parte lo stesso Tsipras nel discorso della vittoria ha messo in qualche modo le mani avanti, dicendosi pronto a collaborare, ha detto, con gli amici europei. Parlamento europeo, dove dopo il voto greco, tra l'altro in queste ore, si prospettano alleanze inedite, assi inedite. In queste ore ad esultare per la vittoria di Tsipras con i toni più accesi sono, insieme ai partiti europei di estrema sinistra, quelli euroscettici di destra, come i britannici di Farage, la Lega per quanto riguarda l'Italia e il Front National di Marine Le Pen. Oui, de la gifle démocratique monstrueuse que le peuple grec vient d'administrer à l'Union. Uno schiaffo democratico mostruoso che il popolo greco ha dato all'Unione Europea, dice Marine Le Pen. Penso si tratti prima di tutto della sofferenza inaudita subita dal popolo greco sotto l'influenza dell'Unione Europea. Dicevamo, discussione in corso, ne parleremo ampiamente. A Bruxelles però oggi anche un altro vertice, il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura. Tra i temi qui ricordiamo la decisione della Commissione di non riconoscere a 14 Stati membri, tra cui l'Italia, 1,2 miliardi di finanziamento dell'attività agricola per carenze di gestione di diversi settori. Dall'insufficienza dei controlli e ritardi sui pagamenti ai produttori del mondo agricolo, l'impatto finanziario per l'Italia è di oltre 97 milioni di euro. La maglia nera della cattiva gestione tocca però alla Francia, che non ha diritto a oltre 983 milioni di euro. Ci fermiamo qui per ora per quanto riguarda l'Europa. Ancora un saluto da Anna Migliorati. Vi ricordo l'appuntamento con Europa Notte. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.